Eccoci amici, allora ora è arrivato il momento per Web Radio Luzzi, uno dei momenti più saporiti. Un appuntamento da leccarsi i baffi per i maschietti e di controllare lo stato della ceretta per le femminucce. Il momento che fa schiattare d'invidia le casalinghe. No, non è colpo grosso Giannel, ma è Barbara Brodo. Pendola, pendola delle mie brame, chi è la più bella vicino al tegame? Barbara Brodo. Tornato, ti hai detto Barbara Brodo, B-R-O-D-O, hai capito? Avrete capito che si tratta di cotto e cucinato, a te Barbara. Cari amiche chiavi, cari fornelli, oggi avete problemi a far crescere l'impasto della pizza? Invece di un cerchio vi viene fuori un triangolo storto? Non sapete neppure condirla? Ma che bicisiti mi sa fa? Vi do un consiglio. Iata deve maruzzare un borgandico. Va cattate una bella maxi, anzaccate in un forno e dicite ai mariti che si di state vua. What è cucinato? Barbara Brodo. Siete delle gacce con la mannaia? Se anche voi, come me, siete delle gacce, perché invece di sossare il pollo spaccate il tavolo. La rosticceria è inferno. Voi fa come volete, a piezzi di scondo. Quanto è cucinato? Barbara Brodo. Un siete capace a tagliare un'insalata che avete girato di mano? La vostra concezione di condire è abbandonare un relitto di radicchio in un oceano di uoglio e aglio? Gittati tutto tuo barcone direttamente in razzi in maduro porco. Tenaglia ringrazierà di sicuro. Dunque, accattate la salata del time out. Morano tutto lo stesso, ma guardate il lato positivo. In galera un giate voi. Salve a tutti dalla vostra Barbara. Barbara Streisand. Brodo, cazzo, volete capisci o no? Brodo!